questa per la parola se non ci sono richieste vostre di elementi normalmente a Gozzi perché si parli e faccia la prima relazione su cittadinanza del Comitato. Grazie, perché sono molti i temi che Pierostier ha messo sul tappeto, molte le questioni, io ne racconterò alcune, in modo particolare connesse appunto al rapporto tra cittadinanza e democrazia. Devo dire che dopo aver elaborato questa relazione dovrei forse modificare, come forse molte volte succede, il titolo, dovrei dire le anomalie della democrazia tedesca, una democrazia anomala dovrebbe essere intitolata forse questo tipo di relazione, un'anomalia che emerge proprio attraverso l'analisi del problema della cittadinanza. L'intento che guida le considerazioni che sto per esporre è rappresentato dal tentativo di chiarire alcune rilevanti trasformazioni del significato del concetto di democrazia costituzionale contemporanea. A tale fine mi riferirò principalmente all'attuale dibattito tedesco. Scrive Konrad Esse che non vi è nessun altro concetto giuridico costituzionale cui siano attribuite interpretazioni così diverse come a quello di democrazia. Indubbiamente l'analisi del rapporto che suscita tra democrazia e i diritti fondamentali riveste una particolare importanza per tentare di chiarire le trasformazioni delle democrazie contemporanee. Sono tuttavia dell'avviso che la dogmatica dei diritti fondamentali, quale è stata sviluppata in Germania nel corso del secondo dopoguerra, si riveli particolarmente obsoleta proprio sul tema del rapporto con la democrazia. Ciò potrà essere evidenziato soprattutto attraverso l'analisi del mutamento di significato del concetto di cittadinanza. In breve, l'analisi del problema della cittadinanza può fornire criteri interpretativi utili per ridefinire la relazione tra diritti e democrazia. Ecco in qualche modo l'assunto che intendo perseguire con queste considerazioni. Sul rapporto democrazia e diritti fondamentali, Beckenfeld ha affermato che i diritti fondamentali sul rapporto democrazia e diritti fondamentali, Beckenfeld ha affermato che i diritti fondamentali ricevono il loro senso e il loro significato principale come fattori costitutivi di un libero processo democratico, cioè della produzione dello Stato dal basso verso l'alto. Il principio democratico è una forma di potere politico che consiste nell'autodeterminazione del popolo, come si può dedurre dagli articoli 20 e 21 con pesanza. Rispetto al processo di formazione democratica della volontà, i diritti fondamentali rappresentano dei limiti precisi. La libertà può infatti entrare in conflitto con le decisioni della maggioranza. I diritti fondamentali rappresentano pertanto in primo luogo delle forme di garanzia delle minoranze, soprattutto la libertà di opinione e di associazione. In questo senso il processo politico democratico, più che un processo di autodeterminazione del popolo, dovrebbe essere concepito come una forma di codeterminazione, mitbestimmung, che solo in quanto fondata sulla partecipazione della maggioranza e delle minoranze può trovare la propria legittimazione. In questa rappresentazione della democrazia è racchiusa la concezione di una libera partecipazione con uguali chance da parte di tutti alla formazione della comunità che mai invece del processo politico. Una sentenza del Bundesverfassungsgericht precisa questa interpretazione del principio democratico, sottolineando che, testualmente, i diritti fondamentali non sono concessi al cittadino perché ne disponga liberamente, ma per la sua condizione di membro della comunità e dunque anche dell'interesse pubblico. Ma chi è cittadino? Che cosa deve intendersi per comunità? E soprattutto, che significato si deve attribuire al concetto di interesse pubblico in presenza di valori conflittuali in una società pluralistica? Raggiungiamo qui immediatamente il nucleo problematico della democrazia costituzionale contemporanea. Questo è proprio in questa sentenza della Corte forte del Bundesverfassung Gericht sul principio democratico. In uno scritto dai toni sottilmente polemici, Joseph Isensee ha osservato che la società è luogo della differenza, mentre il popolo è l'insieme dei cittadini che sono uguali tra gli uguali. In questo senso i diritti fondamentali costituiscono la società, ma non fondano, secondo Isensee, la volontà del popolo nella democrazia. Così nel definire la democrazia come forma di Stato si può affermare, proprio sulla base della distinzione tra popolo e società, che lo straniero in Germania gode della tutela dei diritti fondamentali, ma non ha il diritto di decidere sulla rappresentanza del popolo al quale non appartiene. Ritengo che l'analisi del concetto di cittadinanza possa contribuire significativamente a chiarire alcuni aspetti problematici dell'odierna democrazia costituzionale, la garanzia delle minoranze, il concetto di popolo, la questione della legittimazione, e consente pertanto di individuare le probabili linee evolutive di una teoria della democrazia contemporanea. Affronto in primo luogo il problema delle minoranze, ossia la questione del pluralismo, che ha trovato nuove soluzioni nelle costituzioni dei Länder di recente annessi alla Bundesrepublik. Esse ci lasciano intendere come la democrazia non possa più essere fondata sui principi di una nazione, ma debba piuttosto essere costruita sulla molteplicità di principi che appartengono a una pluralità di comunità etniche, linguistiche e culturali. Così numerosi articoli delle costituzioni dei nuovi Länder viene enunciata la tutela delle minoranze etnico-culturali, sia straniere, sia appartenenti a popoli di cittadinanza tedesca. Si tratta indubbiamente di un movimento costituzionale, come ha scritto bene Ebert, il Verfassungsbewegung, che lascia intravedere la necessità di una comune cittadinanza non più fondata nazionalisticamente. Contrariamente a questo movimento costituzionale, che luogo dei nuovi Länder, a livello federale invece si può assistere ad un sostanziale immobilismo. Ciò fa del tutto evidente se si considera l'esito dei lavori della Gemeinsame Verfassungskommission, istituita nel 92 con l'esplicito compito di formulare alcune proposte di revisione costituzionale all'indomani dell'avvenuto processo di riunificazione delle due Germanie. I lavori della Verfassungskommission si sono conclusi con una serie di Empfehlungen, tra le quali compare l'enunciazione del rispetto delle minoranze. Lo Stato, si legge testualmente, rispetta l'identità delle minoranze etniche, culturali e linguistiche. Nella precisazione dei motivi che sono all'origine di questa proposta di modifica del Grundgesetz, si fa riferimento alla storia costituzionale tedesca, dalla Paulskirche a Weimar, trattati internazionali recepiti dal Bundestag tedesco. Tuttavia, nella redazione finale dell'articolo formulato dalla Verfassungskommission per il rispetto delle minoranze, non è stata accolta la proposta che era stata avanzata dall'SPD e che richiedeva non solo il rispetto, ma anche la protezione e la promozione ferma dei gruppi etnici e delle minoranze nazionali. La proposta dell'SPD era fondata sulla rappresentazione di una società multiculturale, della quale non era richiesta l'integrazione, bensì piuttosto la coesistenza reciproca delle diverse culture. Il rifiuto espresso dalla Commissione Costituzionale di introdurre il principio della promozione dei gruppi di minoranza per consentire la piena equiparazione con la maggioranza corrisponde indubbiamente al rifiuto di modificare il principio tedesco della cittadinanza. Ecco la prima significativa tesi che vorrei proporre alla discussione, cioè proprio questa immodificabilità per ora del principio tedesco di cittadinanza come ostacolo al raggiungimento della piena equiparazione culturale, politica e sociale tra maggioranza e minoranza. Nel dibattito in seno alla Commissione era stata infatti avanzata la proposta di fondare la cittadinanza non più sullo ius sanguinis, come attualmente secondo la legge del 1913 parzialmente modificata, bensì sullo ius soli, che era una proposta dell'anima dell'essere. La proposta è stata respinta in quanto giudicata del tutto incompatibile con il diritto tedesco di cittadinanza, ossia con il principio di nazionalità, Staatsangehörigkeit, letteralmente il diritto di appartenenza allo Stato, fondato lo ius sanguinis. L'acquisizione della cittadinanza sia attraverso la nascita, sia attraverso il procedimento di naturalizzazione, si basa infatti in Germania sull'idea di inserimento nella comunità nazionale. La cittadinanza rappresenta dunque il costretto legame tra Stato e cittadini. Ma quali sono i fondamenti giuridici e le implicazioni politiche di questo rapporto e come potrebbero o dovrebbero essere in una società pluralistica? In un'importante sentenza del 74, nota come Spagna Preschlusso, il Bundesverfassung Gericht ha messo in luce le molteplici relazioni che sono connesse con lo status della cittadinanza. Essa rappresenta la condizione dell'appartenenza alla comunità statale e quindi del godimento di diritti che sono riservati ai soli cittadini tedeschi, i cosiddetti diritti tedeschi. Articolo 8, libertà di riunione, 9, associazione, 11, circolazione, 12, libertà di professione, 16, secondo comma, divieto di estradizione, 20, sul diritto di voto attivo e passivo, 24 comma, diritto di resistenza. L'essenza della cittadinanza, da un punto di vista democratico, così anche nel tribunale costituzionale, non consiste nel fatto che la persona sia soggetta al potere statale, ma nel fatto che contribuisca a formare la comunità statale e che pertanto l'interesse del cittadino a ciò che i suoi figli diventino cittadini di questa comunità e godano della sua protezione. Il legislatore ha posto il fondamento della cittadinanza nella Stamus Principio, principio della nascita, riconoscendo apertamente uno ius sanguinis, ciò per precise implicazioni, in quanto costituisce un legame non solo con la famiglia, ma anche e soprattutto con lo Stato. In breve, lo Stato principio stabilito dal legislatore costituisce un rapporto politico che lega strettamente individuo, famiglia e Stato, introducendo delle precise differenziazioni nell'ambito della società tedesca. Si tratta pertanto di definire la politicità di questo rapporto. I contenuti politici racchiusi nella concezione tedesca della della cittadinanza emergono assai chiaramente da alcune sentenze del Bundesverfassung Gericht relative al diritto elettorale degli Ausländer. Della sentenza del 9 febbraio 89 riguardante la legge elettorale nei comuni e nei distretti dello Schleswig-Holstein, il Bundesverfassung Gericht pone due precise questioni politiche relative alla nozione di popolo e al concetto di legittimazione democratica. Vi si afferma che la legge contrasta con l'articolo 28 con Gesetz, in base al quale il popolo deve avere una rappresentanza che emerga nelle elezioni generali, dirette, libere, uguali e segrete. Con popolo si deve intendere il popolo tedesco, dichiara il Tribunale Costituzionale, e pertanto agli Ausländer non può essere riconosciuto un diritto comunale elettorale. Secondo la sentenza, il popolo dal quale, in base all'articolo 20, Grundgesetz emana tutto il potere statale è formato dai cittadini tedeschi e dunque l'appartenenza al popolo della Repubblica Federale è mediata dalla cittadinanza. In questa prospettiva la cittadinanza rappresenta il presupposto giuridico rechtliche Voraussetzung per l'uguale status di cittadino che da una parte fonda uguali doveri ma dall'altra anche e soprattutto i diritti attraverso il cui esercizio il potere dello Stato nella democrazia ottiene la sua legittimazione. In ciò consiste la funzione politica della cittadinanza. L'inclusione degli stranieri tra gli aventi diritto al voto per l'elezione delle rappresentanze dei comuni e dei distretti avrebbe violato, a giudizio del Tribunale Costituzionale, il principio democratico enunciato agli articoli 20 e 28 Grundgesetz che pongono nel popolo tedesco il fondamento del potere sia a livello di Bund che a livello dei Länder. Ne conseguiva che l'attribuzione del diritto di voto agli stranieri avrebbe privato di legittimazione democratica le rappresentanze elette. Probabilmente nelle sentenze del Bundesverfassung Gericht si può individuare un orientamento, come è stato scritto, di tipo democratico popolare, Volksdemokratisch, che si esprime in una concezione della democrazia fondata su un'idea omogenea di popolo. Quindi la giurisprudenza, è vero, contribuisce a creare una rappresentazione, in questo caso dell'idea di democrazia. Un'idea omogenea di popolo sia del popolo tedesco. Per questo il Tribunale Costituzionale mette in discussione il diritto del legislatore di fare decidere i componenti locali della popolazione invece del solo popolo tedesco. A questa rappresentazione del popolo come realtà omogenea pre-statale appartiene l'idea di cittadinanza come espressione di uno ius sanctis. Questa concezione democratico-popolare della democrazia corrisponde ancora, come osserva Bruno Otto Grid, allo Stato nazionale sovrano del secolo XIX, e la concezione che ha impedito a partire dal Kaiserreich l'integrazione di larghi strati della popolazione considerati estranei al popolo, dai cattolici, ai socialisti, agli ebrei. In realtà è assai dubbio che si possa interpretare il concetto di popolo che compare nell'articolo 28 di Ludwig Esetz come popolo tedesco. In quanto le rappresentanze là menzionate non sono scelte dal popolo tedesco, ma dalle popolazioni del land, dei comuni e dei distretti. La democrazia del Ludwig Esetz sembra dunque una costruzione realizzata dal basso verso l'alto, piuttosto che una realtà politica gerarchica legittimata dall'intero popolo, ossia realizzata sul fondamento dell'omogeneità del popolo. La solenne proclamazione dei diritti fondamentali all'articolo 1 Grundgesetz è infatti una condizione che rende possibile una democrazia senza omogeneità. Senza omogeneità. L'articolo 4 permette una non omogeneità religiosa, l'articolo 5 quella culturale, l'articolo 3, comma terzo, respinge la discriminazione e ammette la coesistenza di individui diversi per nascita, razza, lingua, nazionalità, fede, opinioni religiose o politiche. Anche alcune sentenze del primo senato del Bundesverfassungsgericht confermano questa interpretazione, quindi non è omogenea la giurisprudenza all'interno del tra primo e secondo senato, prima e seconda corte ci sono differenze profonde. Anche alcune sentenze del primo senato del Bundesverfassungsgericht confermano questa interpretazione proclamando che la libera autodeterminazione di tutti, frae, esercito, destino, ada, proclamano questa necessità come fondamento della democrazia. Ma per la realizzazione di questa democrazia senza omogeneità, la concezione della cittadinanza incentrata sull'abstamus principe rappresenta un ostacolo insormontabile. Il concetto di cittadinanza viene reso nella lingua tedesca sia con Staatsbürgerschaft, ossia con cittadinanza attiva nello Stato, che con Staatsangehörigkeit, ossia con il concetto di nazionalità. Si è dunque cittadini quando si appartiene allo Stato nazionale. In breve, sono le condizioni di appartenenza allo Stato, determinate dalla nascita, che fondano la possibilità di una cittadinanza attiva del processo di formazione della volontà politica. La cittadinanza tedesca si radica in una sorta di precompressione etnica, ethnische Vorbestimmung, ossia nell'idea di integrarsi nelle condizioni di vita tedesche. La legge sugli Ausländer del 90 ha aperto, seppure con grandi cautele, la prassi dell'Einbürgerung, ma ha stabilito tuttavia che lo straniero possa essere naturalizzato solo se rinuncia alla sua precedente cittadinanza. In questa prospettiva viene apertamente respinta l'ipotesi della Mehrstaatlichkeit, cioè dell'appartenenza a più di una comunità statale. Questo orientamento compare anche nelle Einbürgerungsrichtlinien del 77, dove si può leggere che chi aspira alla naturalizzazione deve riconoscersi nei principi dell'ordinamento liberale e democratico della Bundesrepublik. L'accettazione delle condizioni istituzionali dello Stato rappresenta dunque un criterio necessario per la concessione dell'appartenenza allo Stato dal quale dipende l'esercizio della cittadinanza attiva. Emerge così con chiarezza il rapporto tra sovranità dello Stato e cittadinanza, da cui dipende la necessità di porre una stretta connessione tra l'analisi delle trasformazioni del concetto di cittadinanza e l'indagine sugli attuali mutamenti della forma dello Stato. Al significato del concetto di cittadinanza appartiene il principio della fedeltà allo Stato, ossia il riconoscimento di un determinato ordinamento giuridico. Da ciò consegue che la possibilità di una doppia cittadinanza è destinata a mettere in discussione la certezza del diritto, in quanto può dar luogo a conflitti di fedeltà, così si è espresso il Bundesverfassungsgericht, che ha anche sottolineato che la cittadinanza doppia non è desiderabile e che comunque deve essere considerata una irregolarità. Tra l'altro ha elaborato una più perfetta mai di questa situazione conflittuale. In questa posizione il Tribunale Costituzionale traspare apertamente un esplicito riconoscimento della sovranità dello Stato, ma si tratta di un'affermazione di principio che è sempre più in contrasto con la realtà dei rapporti internazionali. La cittadinanza, come presupposto dei diritti conferiti da una determinata comunità politica, è destinata infatti ad entrare in una crescente contraddizione con l'universalismo dei diritti, ossia con il riconoscimento da parte del diritto internazionale della singolarità di diritti a ogni essere umano. Credo questo sia un tema che verrà affrontato dal professor Allegretti. Così l'articolo 1 della Convenzione contro ogni forma di discriminazione razziale del 65 stabilisce l'uguale trattamento degli stranieri circa le libertà fondamentali. La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 50 garantisce la libertà di espressione, riunione e associazione a ogni persona. Queste libertà, come avverte Gravert, non sono attribuite allo status activus, ma a tutti gli uomini, si tratta di una sorta di denazionalizzazione della cittadinanza. Ma non sono solo i principi del diritto internazionale, bensì anche la creazione di un mercato del lavoro caratterizzato da una mobilità che supera i confini nazionali, incide in maniera determinante sulle trasformazioni della cittadinanza. Aumenta infatti il numero delle unioni di nazionalità mista e l'acquisizione della doppia cittadinanza diviene praticamente inevitabile. Sono questi mutamenti che si possono probabilmente addurre per comprendere il senso di recenti progetti di legge caratterizzati dall'abbandono del rigido fondamento nazionalistico della cittadinanza, presentati nel 93 rispettivamente dal Bundesrat e dall'SPD al Bundestag, che configurano la possibilità che accanto all'Anstandsprinzip possa essere riconosciuto lo ius soli e che il procedimento della Bürgerung possa essere facilitato soprattutto mediante l'accettazione della Mehrstaatlichkeit. In questi nuovi progetti di legge possono essere probabilmente riconosciute delle risposte adeguate ai problemi che investono le trasformazioni della cittadinanza nella realtà contemporanea. Ma per comprendere appieno il senso di queste trasformazioni, credo sia necessario considerare brevemente alcuni momenti fondamentali della storia di questo concetto. L'articolo 6 della Dichiarazione francese dell'89 proclamava che gli uomini erano uguali davanti alla legge. Questa uguaglianza era un diritto che derivava dal diritto naturale. I diritti del cittadino erano i diritti dell'uomo riflessi, in quanto esprimevano il diritto alla conservazione dei diritti naturali. In breve, il cittadino era cittadino e aveva i diritti di un cittadino perché era titolare dei diritti universali dell'uomo. Ma la partecipazione alla sfera politica non riguardava tutti gli uomini. È sufficiente pensare infatti ai criteri censitari introdotti dalla Costituzione del 91. Appare subito evidente il contrasto all'universalismo dei diritti dell'uomo, su quali si fondava originariamente il concetto di cittadinanza, e le soluzioni costituzionali adottate per l'esercizio della funzione politica della cittadinanza. Anche in Kant, che espresse il suo entusiasmo per la Costituzione francese, il concetto di cittadino, Bürger o Staatsbürger, contrapposto al Bourgeois, si riferiva solo a chi era dotato di indipendenza, selbstständiga, ossia chi disponeva di proprietà o cultura. Il secolo XIX fu invece caratterizzato da una progressiva soppressione dell'esclusività sociale dello status di cittadino, in quanto vennero gradualmente eliminati i criteri fondativi legati alla proprietà, alla cultura, all'età, al sesso dello status di cittadino. Ciò significò altresì che i due principi della Staatsangehörigkeit e quello della Staatsbürgerschaft, ossia il principio del potere dello Stato e quello democratico, entravano tra loro in aperto conflitto. Il concetto di cittadino è diventato così sempre più inclusivo, ma non si è certo identificato con il concetto di uomo. Il principio democratico ha infatti abbattuto le barriere connesse alla condizione economica o allo stato sociale per l'esercizio della cittadinanza attiva, ossia della Staatsbürgerschaft, ma il potere sovrano dello Stato determina i criteri della Staatsangehörigkeit, che tracciano i confini tra cittadini e stranieri, e consentono l'accesso a una cittadinanza piena. Emerge così ancora una volta la tensione interna al concetto di cittadinanza tra la sua dimensione politica e quella sociale. Ma questa tensione appare ora rovesciata rispetto al secolo scorso. Mentre nel secolo XIX la condizione di marginalità sociale escludeva dalla cittadinanza, al contrario, alla fine del secolo XX è l'esclusione dall'appartenenza allo Stato che può comportare anche una condizione di deprivazione sociale. In questo senso, come è stato osservato, la cittadinanza non è solo uno stato giuridico, ma è anche un bene sociale, sociale tutto, che rappresenta una chiave di accesso alle possibilità di vita delle società industriali. Sono con ciò poste le premesse, dopo aver sentito sviluppato una sorta di decostruzione analitica del concetto di cittadinanza, per avviare invece una riflessione ricostruttiva di questo concetto, facendo riferimento al dibattito che attualmente muove in Germania. Si può probabilmente affermare che nel concetto di cittadinanza siano racchiuse tre dimensioni: quella della nazionalità, ossia dell'appartenenza alla comunità statale, quella della Staatsbürgerschaft, intesa come attiva partecipazione alla vita politica di una società, infine la dimensione della partecipazione alla vita della cosiddetta civil society. Si tratta di una dimensione per la quale non compare significativamente alcun concetto nella tradizione costituzionale tedesca. Ma è proprio quest'ultimo significato del concetto di cittadinanza che sembra attualmente sempre più in corso. Mentre la società nata dall'età della rivoluzione di fine Settecento, la società degli Staatsbürger, era caratterizzata dal contrasto tra disuguaglianza sociale e uguaglianza politica, la società contemporanea si è invece caratterizzata da un'estensione dei principi egualitari che regolano la partecipazione politica dei cittadini alla sfera socio-economica. Uri Preuss afferma che questa tendenza corrisponde alla trasformazione dello Staatsbürger, cittadino dello Stato, in un Gesellschaftsbürger, cittadino della società, e al mutamento della Staatsbürgerische Gesellschaft in una Bürgergesellschaft, non nella Bürgerische di origine italiana, Bürgergesellschaft, letteralmente società dei cittadini. Questa società che si afferma accanto alla sfera politica del cittadino si lascia intravedere nelle forme di codeterminazione all'interno dell'impresa economica, originariamente concepita come inaccessibile al principio democratico, o nella sottomissione delle relazioni economiche a criteri di responsabilità ecologica, etica, sociale. Anche la giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht, ancora una volta, riconosce queste trasformazioni. Si considera ad esempio la sentenza sul diritto di scegliere liberamente la professione, secondo l'articolo 12 del Grundgesetz. In proposito, il Tribunale Costituzionale riconosce la necessità che lo Stato intervenga con una serie di prestazioni nella fase della formazione, Ausbildungswesen, considerata come condizione imprescindibile per una libera scelta professionale, allo scopo di compensare le ineguali distribuzioni del mercato. I diritti del cittadino, significa, non sono più limitati alla sola sfera politica dello Stato, ma investono anche le relazioni private della società. Ossia non sono più soltanto diritti di difesa rispetto al potere dello Stato, ma anche rispetto alle molteplici forme di potere che si danno all'interno delle relazioni sociali. È una sorta di politicizzazione della società a quella a cui si assiste. In questa prospettiva si può affermare che il concetto di Staatsbürger mostri tutta la sua obsolescenza. Esso appartiene alla dottrina dello Stato di diritto del secolo XIX, essendo stato formulato come concetto che esprimeva le relazioni della sfera statale separata dai rapporti della società civile, si diventa ormai un concetto politico fittizio, in quanto la sua realtà è ancora quella del secolo scorso. La nuova società dei cittadini, che emerge sempre più chiaramente, non è una società di individui isolati, bensì una società di soggetti che appartengono a specifiche realtà sociali e culturali diverse tra loro, che postulano il loro reciproco riconoscimento. In questo modello l'individuo realizza la sua identità non più esclusivamente sulla base dell'appartenenza allo Stato nazionale, bensì piuttosto sul fondamento dell'appartenenza a comunità particolari che non raramente impongono ai loro membri obblighi di fedeltà che concorrono con quelli della nazione egualitaria universalistica e non di raro condividono. La sfera politica degli Stati Uniti si è frantumata in una molteplicità di realtà sociali per le quali manca un adeguato concetto di politico. La più che li esercita potrebbe essere questo concetto, scrive Boris. In questa società dei cittadini, l'idea di cittadino non si fonda più sulla nazionalità, ossia sull'appartenenza allo Stato, bensì sull'appartenenza alla società e alle molteplici comunità particolari di cui essa consta. È una svolta significativa che impone una rielaborazione della teoria della democrazia costituzionale contemporanea. Rispetto alle teorie della democrazia elaborate nei primi decenni del Novecento, penso soprattutto all'importante versione che segnala, l'idea di Kierkegaard che esercita consente di individuare l'essenza della democrazia, per usare ancora una volta il concetto di Kierkegaard, non tanto nella garanzia dei diritti delle minoranze politiche e del loro compromesso, come esprimeva Kierkegaard, quanto piuttosto nella garanzia dei diritti delle minoranze etniche, linguistiche e culturali e nel loro reciproco riconoscimento. Credo che si possa individuare più un nuovo significativo rapporto tra cittadinanza e democrazia. La democrazia dovrebbe fondarsi su un'idea di cittadinanza che comprenda non solo la partecipazione alla sfera politica dello Stato, ma anche la tutela delle diverse identità culturali sulla base della comune appartenenza alla stessa realtà sociale. Questa concezione della democrazia può imporsi solo attraverso il superamento definitivo dell'idea di cittadinanza nazionale. La fine della cittadinanza nazionale comporta necessariamente la fine dello Stato nazionale, come ha affermato di recente Habermas in un dibattito molto acceso oggi in Germania. È sufficiente infatti ricordare le tesi volontarie di Benkeferde, il quale ribadisce invece con forza la centralità dell'idea di nazione intesa come comunità determinata dalla stessa nascita, abstammung ancora una volta, e dalla stessa lingua. Nella prospettiva di un superamento dell'idea di cittadinanza nazionale, i cittadini sarebbero portatori di una uguaglianza che deriverebbe non tanto da comuni legami di sangue, ossia dall'appartenenza ad una ineluttabile comunità di destino, un entrimpare, come si è espresso Isense, quanto piuttosto dalla comune partecipazione alla ricerca di soluzioni comuni per problemi comuni. Ma quale dovrebbe essere il fondamento, ecco, di questa concezione della cittadinanza non più nazionalistica, enunciata dal movimento costituzionale che si è espresso nelle Costituzioni Nuovi Länder, nei lavori della Gemeinsame Verfassungskommission e in proposte di revisioni costituzionali? Per tentare di rispondere solo alle considerazioni conclusive, dovrò superare l'approccio della dottrina giuridica e della teoria politica per approdare ad un certo ambito della filosofia del diritto, dove la ricerca è ancora aperta, estremamente aperta, e anche le mie considerazioni finali estremamente problematiche. Riprendo infatti ancora una volta la tensione tra diritti dell'uomo e diritti del cittadino. La tensione tra diritti naturali dell'uomo e la loro riduzione dei diritti positivi del cittadino continua a sussistere anche oggi, nelle costituzioni contemporanee. Il Grundgesetz tedesco del 49, nel Grundgesetz tedesco del 49, i diritti dell'uomo coesistono con i diritti fondamentali. Questa è una differenza su cui non si è, secondo il mio avviso, non si è adeguatamente riflettuto, la distinzione tra diritti fondamentali e diritti dell'uomo. Diritti fondamentali che sono i tradizionali diritti di libertà positivizzati. I diritti dell'uomo su quali si fonda la dignità dell'uomo sono espressamente menzionati nell'articolo 1, comma 2 del Grundgesetz. Nel dibattito costituente, insieme al parlamentare Cesare, essi vennero concepiti come una sorta di ordinamento positivizzato del diritto naturale, positivierte natura ex homo, che è una contraddizione in termini. Termine che si mette a riferimento alla storia costituzionale, dove siamo abituati a concepire questo passaggio da giusnaturalismo, positivismo giuridico e così via. Ritorna invece al dibattito con questa idea di un diritto naturale positivizzato. Tuttavia, i costituenti tedeschi non vuole accontentarsi di indeterminate menscerette, ma ne vuole esprimere la tutela mediante il Grundrecht, ecco la relazione. Giuridicamente positivo e traducibile nella pratica del diritto. In questo rapporto tra diritto naturale, diritto positivo e diritti dell'uomo spetta un carattere normativo e programmatico. In un commento di alcuni anni fa, l'articolo 1, comma 1 del Grundgesetz, Sturzetz, che si riferisce alla intangibilità della dignità dell'uomo, Podleck metteva in luce come tra le condizioni della dignità dell'uomo, che si fonda sui diritti dell'uomo, vi fosse quella dell'uguaglianza giuridica, e precisava come fosse incompatibile con la tutela della dignità il fatto di mantenere donne e uomini nati all'estero in una condizione di inferiorità giuridica. Lo sviluppo dell'odierna società pluralistica acquisisce questa consapevolezza. In virtù di queste considerazioni appare infatti difficilmente sostenibile la dipendenza dalla cittadinanza di alcuni diritti civili, libertà di riunione e di associazione, come avviene oggi in Germania. Essi devono piuttosto spettare a ogni uomo, come è stato significativamente proposto. Si tratta dunque, da una parte, di estendere il significato di diritti dell'uomo. Noi guardiamo le convenzioni dei parti internazionali, vediamo che dal 48 a oggi c'è stata un'estensione dell'idea di diritto dell'uomo, e dall'altra di ampliare il concetto di cittadinanza oltre i limiti della nazionalità, secondo i criteri precedentemente esposti. Ciò non significa tuttavia che la cittadinanza debba essere condotta a un astorico diritto dell'uomo, cioè che ne scaturirebbe un'insostenibile identificazione tra cittadino e l'essere umano. Occorre, credo, cioè mantenere la distinzione tra diritti dell'uomo e diritti del cittadino. Cittadino significa essere parte di precise relazioni sociali e politiche. L'idea di cittadinanza deve essere pertanto relativizzata, ossia ricondotta alle diverse comunità sociali e politiche di cui ogni individuo fa parte. Ogni comunità si basa su di una comune comprensione dei diritti e dei doveri che ne sono fondamento. È cittadino di quella comunità l'individuo che ne condivide non tanti legami di sangue, quanto piuttosto quella comune comprensione. Ecco dunque il fondamento di una cittadinanza intesa come reciproco riconoscimento dei cittadini come uguali. In relazione alla comune comprensione che fonda la comune appartenenza, si possono probabilmente individuare, come ha osservato Habermas, due livelli di assimilazione. Il primo è l'adesione ai principi costituzionali di un dato ordinamento giuridico, ossia di una precisa cultura giuridica. L'altro è l'adesione agli orientamenti etici di una determinata forma di vita culturale. Ne possiamo trarre alcuni pesi finali. Alle minoranze etniche e culturali si può chiedere solo l'adesione ai principi costituzionali della nuova comunità di appartenenza, ma non certamente l'assunzione dei principi di vita etico-culturali, giacché ciò significherebbe, come avverte giustamente Habermas, perdere la propria identità collettiva. In breve, si deve chiedere la coesistenza reciproca delle diverse culture, ma non la loro integrazione. Da ciò segue la necessità, nell'ambito della politica del diritto, di introdurre norme speciali per le minoranze etniche e culturali, ossia l'esigenza, come avviene ad esempio del diritto internazionale privato tedesco, di tenere conto, sono considerazioni generiche queste, nell'ambito della legge applicabile, ossia dell'ordinamento, nell'ambito dell'ordinamento giuridico del paese di accoglienza, anche di regole di altri sistemi giuridici. Sono metodi che si prestano alla tutela dell'identità culturale della persona, ad esempio nell'ambito del diritto di famiglia. Occorre infine avere la consapevolezza che ciò non significa trattare uguali in modo uguale e disuguali in modo disuguale, bensì che la diversità di trattamento deve mirare alla promozione dell'uguaglianza, ossia alla realizzazione di una equiparazione effettiva. In ciò, come pure nelle considerazioni che ho precedentemente svolto sulle implicazioni politiche della cittadinanza, mi auguro che si possano individuare alcuni elementi utili per un'adeguata ricostruzione della democrazia costituzionale contemporanea. Grazie. Perfetto, molto bella questa discussione, grazie a Cotti. Ci sono tante cose da discutere, noi dobbiamo tenere spazio per la discussione anche.